Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Allora, in questa trasmissione, come sapete, io amo mettere uno dietro l'altro degli anelli di legalità, di storie di resistenza alle mafie, non alla mafia, alle mafie, Cosa Nostra, 'Ndrangheta, Sacra Corona Unita, Camorra, chi più ne ha ne metta, quelle internazionali e via dicendo. Allora, in questi anelli di legalità diamo voce quindi a chi si oppone, ed anzi vi invito, cari radioascoltatori, a continuare a segnalarci delle storie di chi si oppone alle mafie in tutto il territorio nazionale a sottotiro@radio24.it. Ebbene, nel palermitano, nel corleonese, una zona meravigliosa, conosciuta per fatti certamente non edificanti, c'è un giornalista, un collega, direttore di una TV che è stato già nostro ospite, la TV si chiama Teleiato, che continua a martellare e a battere su temi che evidentemente alle mafie non piacciono, a Cosa Nostra non piace. Non piace lui, non piace la sua trasmissione, non piace la sua TV e quindi continua a ricevere intimidazioni. L'ultima, recentemente, pochissime settimane fa, in cui ovviamente per l'ennesima volta gli si diceva che la sentenza era stata emessa, che la sua fine ormai era giunta, si tiravano in mezzo i familiari. E il direttore di questa TV, Pino Maniaci, ha fatto mandare in onda un bellissimo servizio di cui vi facciamo ascoltare l'ultima parte. Il porco che scrive, quindi, pretende di sostituirsi ai giudici e di emettere sentenze di morte. Ci manca solo la bara con la croce. A meno che il minacciato non decida di accettare l'invito a cambiare paese. Dove se ne dovrebbe andare il minatore non lo dice. Chiaro quindi che si tratti di un partinicese che si è sentito un po' troppo disturbato dai servizi di Teleiato. E va bene, assa bene di Cavassia. E i miei rispetti. Faremo come Vassia comanda. Anzi, se si fa riconoscere, poiché i carabinieri hanno trattenuto la sua copia originale, ne abbiamo fatto una fotocopia che sono pronto a infilarle in quella parte. Salutiamo e cacciamo. Fantastico, io trovo meraviglioso tutto di questa lettera. Innanzitutto l'accento, che è semplicemente meraviglioso. Voi sapete che amo la Sicilia, quindi amo ogni cosa della Sicilia. E poi questo dialogo diretto con questo che lo ha definito minatore, Maniaci, l'ha definito minatore. Perché? Non perché vada in profondità, forse vada a mestare in profondità del torbido più torbido, ma perché se la mena perdendo tempo a scrivere queste cose. E io trovo che sia veramente meraviglioso il tono diretto che ha usato. Buongiorno Maniaci. Buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori. Allora, come fa ad andare avanti con questa franchezza, con queste espressioni dirette nei confronti di questi qua qua qua che credono di continuare ad intimidirla? Loro si sentono uomini d'onore e per noi disonorarli è una questione d'onore, ma anzi facciamo di più, li sfottiamo, li deridiamo. E questo il mafioso, come li chiamiamo noi, PDM, pezzi di merda, consentimelo, perché sono questi poi e non altro. Certo. E cercano di intimidirci, di farci zittire, visto che noi facciamo un po' l'ufficio anagrafe del territorio, nel senso che facciamo nomi e cognomi delle famiglie mafiose presenti nel territorio e che cercano di prevaricarlo, di succhiare il sangue, quindi sfotterli, denigrarli è proprio un dovere di ogni siciliano. È un dovere non soltanto dei siciliani ma di tutto il popolo italiano. Sapete, radioascoltatori, che seguite Radio 24 questa trasmissione, che noi spaziamo dal nord al sud nella ricerca di storie di chi si oppone alle mafie. Ma in particolare, secondo te, ultimamente, a chi hai dato fastidio e su che cosa hai dato fastidio? Guarda, noi affrontiamo tutto quello che succede nel nostro territorio, copriamo 25 minuti, 25 comuni che sono, guarda, definita ad alta densità mafiosa, visto che arriviamo a Corleone siamo la prima televisione, certo. Siamo più visti dalla RAI, abbiamo un'audience altissima, ma poi arriviamo a Cinisi, Partenico, San Giuseppe Iato, San Cipitello, sono paesi definiti nel tempo, diciamo, un po' critici, certo, dove si certo. Gioca quello che noi abbiamo detto nel tempo l'election day, cioè le elezioni del nuovo padrino dopo la cattura di Bino Provenzano e di Torrina. Quindi diamo fastidio a molti, certo. Che ci occupiamo anche di quelle che sono le collusioni tra la mafia e la politica, che dico io è il perno centrale, fin quando non si rompe, non si taglia questo cordone ombelicale appunto che lega la mafia alla politica, noi la lotta alle mafie non la vinceremo. Assolutamente. Allora io ovviamente è inutile che spinga i nostri radioascoltatori palermitani a seguirti, perché già ti seguono, però dico c'è anche un sito teleiato, quindi dico a tutti gli italiani, andatelo a visitare perché scoprirete e leggerete delle cose che altrimenti non potete conoscere se non leggendole sulla cronache locali. Pino, vorrei chiederti questo qui, ma al di là del fatto che voi siete molto seguiti e molto ascoltati, quando io mi reco a Palermo e a Corleone, anche ultimamente ci sono stato, me ne sono reso perfettamente conto, però qual è poi effettivamente, voglio dire, il radicamento, quanto smuovete la coscienza civile? Voglio dire in altri modi, quanti vi seguono soltanto perché apprendono e conoscono e quanti vi seguono invece soltanto perché ormai è diventato un'abitudine? Quanti quindi attraverso di voi crescono e quanti invece semplicemente vi subiscono? Guarda che abbiamo dei risultati eccellenti. Bene. Una buona informazione che incide moltissimo sul territorio. Io ti posso dire che in 25 comuni noi abbiamo qualcosa come 180.000 telespettatori, manco qualche emittente a livello nazionale li fa. Certo. Ma non perché, attenzione, ormai è diventata un'abitudine come alle 2:15 vediamoci la Santa Messa o quello che dice Pino Magnaghi, ma semplicemente perché ogni giorno noi incitiamo quelli che sono i nostri telespettatori a ribellarsi a questo fenomeno e ci siamo riusciti. Certamente, non certamente. Diciamo noi, ma lo dicono le forze di polizia, sono ormai è una percentuale altissima quella che nel territorio non paga più il pizzo, che si ribella, e siamo noi a correre e a prendere le macchine bruciate, le vetrine saltate. Sono certo. Tantissime le persone che vanno a denunciare adesso. Ultimamente ci siamo occupati di beni confiscati alle mafie, che ritornano alle mafie con un giro, diciamo, anche con accordi di quelli che possono essere pezzi dello Stato. Certo. Non ci limitiamo a denunciare il mafioso, ma anche eventualmente le eventuali collusioni. Allora, lunga vita alla TV di Pino Magnaghi, teleiato, lunga vita Pino Magnaghi, noi torneremo ad occuparcene ogni qualvolta ce ne sarà bisogno. Lo ringrazio per il suo intervento, così come ringrazio Fabio Cantadori in regia e Valeria Coffaro in studio e Roberto Galullo, vi auguro una buona giornata.